As-sajda, la prosternazione. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. La rivelazione del libro proviene senza alcun dubbio dal Signore dei Mondi. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Diranno, l'ha inventato? È invece una verità che proviene dal tuo Signore, affinché tu ammonisca un popolo a cui non giunse prima di te alcun ammonitore, affinché si lascino guidare. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah è colui che ha creato in 6 giorni i cieli e la terra e tutto ciò che vi è fra mezzo. Quindi si è innalzato sul trono. Al di fuori di lui non avete alcun patrono o intercessore. Non ve ne ricorderete? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Dal cielo dirige le cose della terra, e poi tutto risalirà a lui, in un giorno che sarà come 1000 anni del vostro contare. Zalika alimul ghaibi wash-shahadati l'azizur rahim. Egli è colui che conosce il palese e l'invisibile. È l'eccelso, il misericordioso. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. È colui che ha perfezionato ogni cosa creata e dall'argilla ha dato inizio alla creazione dell'uomo. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Quindi ha tratto la sua discendenza da una goccia d'acqua insignificante. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Quindi gli ha dato forma e ha insufflato in lui del suo spirito. Vi ha dato l'udito, gli occhi e i cuori. Quanto poco siete riconoscenti. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. E dicono, quando saremo dispersi nella terra, godremo di una nuova creazione? È che non credono all'incontro con il loro Signore. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ بكم ترجعون. Di, l'angelo della morte che si occuperà di voi vi farà morire e poi sarete ricondotti al vostro Signore. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم رب ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Se allora potessi vedere i malvagi dire col capo chino davanti al loro Signore, Nostro Signore, abbiamo visto e sentito. Lasciaci tornare, sì che possiamo fare il bene. Ora crediamo con certezza. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Se avessimo voluto, avremmo dato ad ogni anima la sua direzione. Si è invece compiuta la mia sentenza. Riempirò l'inferno di uomini e di demoni insieme. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Gustate allora il castigo per aver dimenticato l'incontro di questo giorno. In verità anche noi vi dimentichiamo. Gustate il castigo perpetuo per quello che avete fatto. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. In verità credono nei nostri segni solo coloro che quando vengono loro rammentati si gettano in prosternazione, lodano il loro Signore rendendogli gloria e non sono tronfi di orgoglio. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يُنْفِقُونَ. Strappano i loro corpi da eletti per invocare il loro Signore, per timore e speranza, e sono generosi di quello che abbiamo loro concesso. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nessuno conosce la gioia immensa che li attende, ricompensa per quello che hanno fatto. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Forse il credente è come l'empio? Non sono affatto uguali. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Coloro che credono e compiono il bene saranno ospitati nei giardini del rifugio. Premio per quello che avranno fatto. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Mentre coloro che saranno stati empi avranno per rifugio il fuoco. Ogni volta che vorranno uscirne vi saranno ricondotti e sarà detto loro: provate il castigo del fuoco che tacciavate di menzogna. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Daremo loro un castigo immediato, prima del castigo più grande, affinché ritornino sulla retta via. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Chi è peggiore ingiusto di colui che si distoglie dai segni di Allah dopo che gli sono stati ricordati? In verità ci vendicheremo dei trasgressori. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Già demmo il libro a Mosè dicendogli: non dubitare circa il suo incontro. Ne facemmo una guida per i figli di Israele. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. E finché furono perseveranti e credettero con fermezza nei nostri segni, scegliemmo tra loro dei capi che li dirigessero secondo il nostro comando. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawma al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. In verità il tuo Signore nel giorno della resurrezione giudicherà tra loro a proposito delle loro divergenze. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. Non è servito loro da lezione che prima di loro abbiamo fatto perire tante generazioni nelle cui case in rovina si aggirano? In verità in ciò vi sono segni. Non ascolteranno dunque? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Non hanno visto come spingiamo l'acqua verso una terra arida, suscitando poi una vegetazione che nutre il loro bestiame e loro stessi? Non vedranno dunque? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. E dicono, quando verrà questa vittoria, se siete veridici? قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Di, nel giorno della vittoria sarà vano il credere dei miscredenti. Non avranno alcun rinvio. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Allontanati dunque da loro e aspetta. Anche loro aspetteranno.